fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, siamo entrate in diretta con loro, le ragazze da Spino Dadda. Ciao ragazze! Ciao! Fantastiche. Allora, c'è una ragazza di voi che sta spaccando in tutte le nostre salette, giusto? Avete cantato in area YouTube e cosa vi ha detto? Cosa vi hanno detto? Che belle? Le tette grosse. Ah, le tette, ok. Avete fatto le foto in Photoset e vi hanno detto? Che belle le tette grosse. E siete qua in radio e cosa ci diciamo? Che c'è uno sballottamento del... Fantastico. Allora, la ragazza che sta parlando in questo momento è... Ha le tette piccole. Ah, ecco, ci voleva questa... Lo sa che non sono l'unica stereotipante. È una minaccia? Sono con voi. È che saranno in tante con me. Allora, mi unisco al vostro problema. Il gruppo solidale delle tette piccole è capitanato da, come ti chiami? Silvia, la ragazza dalle tette piccole, giusto? Ok, poi, sì, infatti. Poi abbiamo qua vicino a me la... Marta, tu come sei messa? Medio o meno, Intermedio. E poi abbiamo anche fuori il nostro collega che è rimasto ancora proprio stupito da... L'abbondanza, ecco. Ragazza abbondante, come ti chiami? Federica, ok. Che cambierà il suo profilo Instagram e metterà... Federica la tettona. Quindi da domani chi vuole iniziare a diventare... Per me spacchi, diventi meglio della Chiara Ferragni dopo. Speriamo. Chiara Ferragni mi fa... Che ti fa? Baffo. Ti fa il baffo? Ok, ecco. Chiara Ferragni è diventata estetista adesso, ecco. Farà i baffi della nostra... Federica. Allora, ragazzi, giustamente adesso abbiamo alzato l'audience qui e tutti da casa si staranno chiedendo se siete fidanzate o single. Oh! Oh! Single! Tutte e tre! Oh! No! Oh! Fidanzata! Allora, la tettone single. Contattatemi. Contattatemi, esatto, mi raccomando. Ce n'è per tutti, dice. Slogan pubblicitario. Ecco, è uno slogan pubblicitario. La Federica vuole accoppiarsi. Esatto. Giusto? Vieni dalla Spagna, te, giù. Esatto. Ecco. Sta aspettando un Maluma. Maluma Baby. Cos'è un Maluma? È un cantante spagnolo. Latinoamericano. Ah, che ti acchiappa proprio. Cos'è che ti piace? Cos'è che ti piace di lui? Tutto. Tutto. Parla vicino al microfono, non pensando al cantante spagnolo. Tutto di Maluma. Ok, invece voi Silvia e Marta siete fidanzate? Sì. Quindi niente cantanti spagnoli per voi? Ci piacciono lo stesso. Mi piace lo stesso, immaginavo. Ma il vostro fidanzato canta? È bravo? No. Il tuo Marta cosa è bravo a fare? Vendere le case. Ma perché Federica lo sa? No, è il mio che vende le case. Ah, è il tuo, quello di Silvia. Quindi vende le case. È bravo per quello. E basta, ecco, ti sei innamorata del che vende le case. Esatto. La ragazza strana, Silvia. Esordito con È tenero, Cos'è che è tenero? L'hai già tassato? Sì. Insomma, Federica è dappertutto, cioè. È dappertutto, lei devi stare attenta. Non sa dove mettere mani. Ma è anche guardona, Federica? Abbastanza. Ah, quindi funziona ancora di andare a imboscarsi con la macchina? O... Funziona. Ah, funziona. E quindi Federica è sempre lì. Gestisce il posteggio, Federica? Tutti quelli di Spino, bisogna stare attenti dove andare. Ecco, facciamo un appello, attenti a... Come si chiama il paese? Attenti a Spino Dadda. Andate nel parcheggio perché Federica vi controlla. No! Ecco, Federica la guardona si aggira nei posteggi di Spino Dadda. Ecco, state attenti. Quindi anche tu, Marta, ti vai a imboscare, o... Sì, succede. Succede. Marta abita in Cascina, però, quindi abita... sono agevolata. Sei agevolata dalla Cascina, ecco. C'è il fieno? Sì. Ah, proprio una cosa... Sì, sì. Ah, fantastico, eh? Ecco, ma c'era Federica nel fieno? O... No, che io sappia, no. Che tu sappia, no, che ma Federica lo sa. Detto bene. Ecco, che tu non sappia, ma lei sappia, ma lei lo sa, lei lo sa. Federica? Sì? Com'è stata quella volta? Entusiasmante, ecco. Hai visto tutto? Buona parte. Ok, mi piace che Federica ha sotto controllo tutto, però è single. Ok, ma si può dire quanti anni avete? Quanti ce ne dai? No, allora, io visto l'esperienza di Federica avrei detto anche 40, però... No, però l'età così a occhio ve ne do 20. 23. 23? 22, vabbè, no, l'importante è essere maggiorenni, ecco, che, visto l'andazzo dove è andata la, la discussione qua, il racconto, ecco. Bello, bello. È colpa delle tette. Cosa c'è di bello a Spino Dada per far venire questi turisti? Oltre le tette di Federica, che diventeranno un meta di turisti. I campi. Ai campi? Cioè, uno deve venire a Spino Dada per i campi. Ah, esatto. È vero. Sì. Vabbè, noi, i borghi. Ah, voi, voi, Marta c'è dice noi. C'è il mio asilo. Che c'hai, un asilo? Sì, io lavoro in un asilo nido. Cioè, lavori in un asilo nido, Marta? Sì, quindi dovete venire. No, lì. Federica. Ah, scusa, Federica, è vero. Federica lavora all'asilo nido. Sì. Tra l'altro l'asilo nido è privo di tettoia, hanno, in caso di pioggia, tutti sotto Federica, in pratica. Cosa succede? State, che fate, ridete? Sì. Per colpa di cosa? Con i bambini piccoli, a tutto il tempo che siamo andati a tette grosse. Esatto, c'è questi sbalzi così, è un po' particolare. Un po' particolari, esatto. Invece Silvia nella vita, la Silvia scintillante, cosa io fa? Sto nel... studiando. Cosa? Economia Bergamo. Ah, tu sei una che studia economia a Bergamo? Sì, sì, quindi in teoria dovresti essere anche abbastanza seria? Sembro. Sembri seria? Sembra seria, ma non è. Ok, hanno notato da Federica, gonfiati un attimo. No, gonfiati così. Hai notato? Perché lei è capace di fare una cosa che voi non sapete. Attenzione, cos'è la specialità di Federica? Si gonfia. Come si gonfia? Cosa? Cioè è già abbastanza. È già abbastanza espansa? Che fa? Si può dire alla radio o non si può? Si gonfia. Ma tutto? Cioè, ma dopo fa l'effetto che fa? Dopo bisogna tenere la ferma. Vola. Ah, vola, Federica volante. Ok, state attenti, se nei cieli di Spino Dada vedrete qualcosa volare, è sempre Federica, è tutto Federica praticamente. Poi parliamo di Marta. Marta, cosa fai nella vita? Lavoro alla Zucchetti impiegata. Fai l'impiegata? Quella piegata? No. Piegata, attenzione, il colpo di scena. Marta. Per arrivare in alto. Ecco. Bisogna abbassarsi. Per arrivare in alto bisogna piegarsi. Ecco signori, siamo qui nella rubrica consigli per fare carriera a cura di Marta di Spino Dada. Marta, puoi dare un consiglio agli ascoltatori su come fare carriera? Le amiche mi consigliano a piegarsi per arrivare in alto. Attenzione, grande, grande teoria delle amiche, ecco. E te l'ha consigliato l'economista Silvia, esatto. Mi sa. Ecco che sa il fatto suo, sa il fatto suo. Va bene, volete salutare i vostri fidanzati? Che sono magari... qua, che sono qua. Ah, sono qua, sono non qua anche li loro. Salutiamo. Allora non li salutiamo, e no, che cavolo, dai. Se sono qua. Ciao sono... Federico, ciao Manuel. Li saluta la... Perché li saluti te, scusa? Perché mi stanno simpatici. Ah, ti stanno simpatici. Ma ricordiamo cosa siete qua a festeggiare anche. Il compleanno di Mattia, Andrea e Alessandro. Ma non sbattere. Ma perché me li batti all'asta? Cioè, qual è quello in offerta promozionale? Perché li sbatterei tutti e tre. Attenzione, colpo di scena. Ma Federica, la ragazza riservata, ha voluto dichiarare il suo leggero amore. A inizio di questo coso ci hanno detto non dite parolacce, non dite cose strane. Avete detto tutto, praticamente. Tutto è tutto sul filo della censura, praticamente. Esatto. Anche con Federica che minaccia di sbatterseli tutti e tre. Ecco. Esatto. Tra l'altro, Federica, giustamente, è maestra d'asilo, così. Tutta contenuta. Ecco, va benissimo. E loro lo sanno che vogliono essere, cioè che c'è questa minaccia di Federica? Di essere sbattuti, no. No, niente. Quindi quando ascolteranno la nostra intervista verranno a conoscenza di questa cosa. Certo, ecco. Lo faremo ascoltare. Vedo Marta. Guarda, sono lì proprio. Ah, sono qui davanti a noi. Peccato che siamo. Ecco, quello a braccia aperte. Per incontrarti basta un poco di fortuna. Abbracciami e vedrai che questa notte vola. Vola. Ci vuole veramente fortuna a conoscere Federica. E io stasera l'ho avuta. Signori e signori, quindi o andate a Spino Dada o venite al convento di Nonato e... in questo momento, perché sennò la perdete. Ah, non torna più qua. C'è il cartello wanted, sì, ricercata. Sì, non fate entrare quella Federica. Va bene, attenzione. Sta ballando anche. Quello è vostro? È sempre vostro? No. No, però ha ascoltato la radio, non vede l'ora di conoscere. Oh mio Dio. È quello che va su e giù. Ma lui ha cantato con noi. Tu hai cantato con noi. Non vi ascolta, è tutto insonorizzato, però va bene lo stesso. Va bene, ok, siamo quasi alla fine. Volete fare gli auguri di Natale a qualcuno? Buon Natale ai parenti e alla mia famiglia. Federica, buon... mi fai una canzoncina di Natale con le tue amiche, che vi vedo bene? You better watch out. You better watch out. Santa Claus is coming to town. Grandissima, si vede che avete padronanza del testo, si vede. Grandi, grandi. Allora, salutiamo, vai. Vai ciao. Silvia. Ciao. Ciao da Silvia, l'economista. Dillo che mi piace che lo dici così. Io l'economista. Ciao da Silvia l'economista. Ciao da Silvia l'economista. Tanti saluti, tanti baci, buon Natale. Poi abbiamo Federica, ciao a tutti. Sì, ma spiega, cioè, la Federica là? Ah, la tettona, ecco, maestra d'asilo. Ecco, perfetto. Poi abbiamo ciao da Marta, l'impiegata, buon Natale. L'impiegata piegata. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao.